Dicevano che ero bella come la grande notte africana, e nei miei occhi splendeva la luna. Mi chiamavano la perla nera. Questa stagione di interviste la iniziamo con un artista che è molto caro a Radio Città Fujiko e anche molto caro a noi, e ci piaceva molto iniziare proprio con lui perché tra pochissimi giorni ci sarà una data, un evento molto particolare che si terrà anche in un luogo nuovo di Bologna, che è il Poggiolo. Infatti al Poggiolo il 3 ottobre Cisco Bellotti farà uno spettacolo, non proprio un concerto, ma ce lo faremo spiegare da lui. Intanto ciao Cisco, benvenuto a Radio Città Fujiko. Grazie a te, grazie ai tuoi radioascoltatori. Intanto iniziamo con un come va, giustamente, raccontaci un po' come va. Va un po' strano questo periodo, nel senso, di solito in questo periodo mi sto riprendendo delle fatiche estive dei tour, che quest'anno non ci sono state, almeno ci sono state in minima parte. Infatti io finisco la stagione estiva facendo tra le 50 e le 60 date ogni anno, e quest'anno ne ho fatte 12, quindi capite che c'è un problema. Houston, we have a problem, no? E adesso siamo in attesa di capire cosa possiamo fare, cosa possiamo non fare nella stagione invernale, ma la vedo veramente dura e difficile, quindi è un periodo d'attesa, sperando di poter tornare alla normalità anche per il nostro lavoro al più presto. Ok, allora la prossima data, però, visto che ce n'è una proprio che dicevamo è molto vicina, è uno spettacolo concerto, se non sbaglio, il 3 ottobre dicevamo, c'è uno spettacolo dedicato in realtà a un altro artista molto importante. Ti va di raccontarcelo tu? Sì, assolutamente. Dunque, l'occasione è speciale per diversi motivi. Primo, perché suoneremo Marzabotto a Montesole per la commemorazione dell'eccidio nazifascista, quindi in un'occasione molto importante per quanto riguarda la memoria storica del nostro territorio e dell'Italia intera. Proprio per questa occasione ho deciso di portare in scena uno spettacolo che abbiamo preparato quest'estate, dedicato al mio carissimo amico e grande scrittore Luis Sepúlveda, che è, come sapete, scomparso proprio per colpa del coronavirus qualche mese fa. Lucio era un amico, era uno che ho frequentato anche andando a casa sua più volte in quel di Gijón, nelle Asturie. Lui viveva lì e abbiamo fatto tante cose a tempo con i Modena City Ramblers, ma anche io da solo, quando poi sono uscito dai Modena, ho fatto diverse serate insieme a Lucio. E allora mi è venuta voglia di mettere in piedi uno spettacolo che racconta quello che è stato per me Luis Sepúlveda, attraverso alcuni scritti tratti dai suoi libri, e soprattutto le mie canzoni che hanno molto, diciamo così, rapporto con la sua storia. E quindi, per far questo, oltre ad avere il mio gruppo che mi segue sempre dal vivo, ho reclutato questo giovane attore Matteo Procuranti, che è bravissimo, che recita appunto degli scritti di Lucio, e tutto intervallato dalle canzoni. Come hai detto tu perfettamente, è uno spettacolo concerto, cioè c'è sia la parte parlata della parola, sia la parte poi musicale, che la fa un po' da padrone, insomma, proprio per non confondere le persone. Non è che vengono a sentire un monologo, ma vengono a sentire un concerto con delle parti parlate. Scritti giovanili. Sono Pinotti Avio, nome di battaglia Athos. Dalle belle città da te nemico, luci mondi su per le aride montagne, cercando libertà tra rupe e rupe, contro la schiavitù del suol tradito. Lasciammo case, scuole ed officine, mutammo in caserme le vecchie cascine, armammo le mani di bombe e mitraglia, temprammo cuori e muscoli in battaglia. Siamo i ribelli della montagna, viviamo di stenti e di patimenti, ma quella fede che ci accompagna sarà la legge dell'avvenire. Siamo i ribelli della montagna, viviamo di stenti e di patimenti, ma quella legge che ci accompagna sarà la fede dell'avvenire. È la nostra disciplina, libertà è l'idea che ci avvicina, rosso sangue è il color della bandiera, partigiani dalla folta ardente schiera. Sulle strade dal nemico assediate, lasciammo talvolta le carni straziate, sentimmo l'ardore per la grande riscossa, sentimmo l'amor per patria nostra. Siamo i ribelli della montagna, viviamo di stenti e di patimenti, ma quella fede che ci accompagna sarà la legge dell'avvenire. Siamo i ribelli della montagna, viviamo di stenti e di patimenti, ma quella legge che ci accompagna sarà la fede dell'avvenire. Questo concerto, dicevi, com'è nato? Come mai hai scelto di farlo in questo modo? Quindi di unire la musica, di avere un attore appunto che leggerà i pezzi. Com'è nato proprio l'idea di... Che diciamo il titolo è il vecchio che leggeva romanzi d'amore, se non sbaglio, giusto? Il ribelle che legge... Scusami. Quasi. Esatto. In realtà, parafrasando il titolo del suo libro meraviglioso, Il vecchio che leggeva romanzi d'amore... io l'ho intitolato Il vecchio che scriveva romanzi d'amore, proprio dedicandolo a Lucio, perché la sua carriera è proprio costellata di racconti, aneddoti di resistenza, di ribellione che sfociano nell'amore per le altre persone, nell'amore per l'amor proprio, e Lucio questo ce l'ha insegnato quando lo incontravamo, quando lo leggevamo nei libri prima di tutto, ma poi quando anche l'abbiamo incontrato non so quante volte, ma tantissime, nelle nostre spettacoli. Noi, ma pensate che tra il 97 e il 2004 avremmo fatto serate, tantissime serate in compagnia di Lucio, mescolando concerto, musica a lui che interveniva sul palco, oppure lui che presentava e raccontava aneddoti e noi che suonavamo per lui. Quindi insomma... Hai riproposto, in un qualche modo stai riproponendo questa unione con questo spettacolo. Esatto. Okay. Siccome Lucio non è più tra noi, il suo posto l'ha preso questo ragazzo che legge tratti tutti scritti che proprio vengono presi dai suoi libri, nel modo in cui li avrebbe anche in qualche modo raccontate Lucio. Ovviamente Lucio era unico, era una persona speciale, ma proprio speciale per quello che ha vissuto, per quello che ha fatto nella sua vita, nel lavoro, e quindi era una montagna d'esperienza che veniva a raccontare e a raccontarci tutto quello che aveva vissuto, ma con una leggerezza e una semplicità che non ti dava neanche la pesantezza degli avvenimenti accaduti. Pensate a quello che ha subito durante il regime di Pinochet, però riusciva a raccontartelo in maniera che poi tu penetravi in quella storia, che capivi della gravità, però lui riusciva comunque a essere leggero anche quando raccontava storie terribili. E quindi l'idea dello spettacolo è proprio quella, no? Ripercorrere i suoi libri, alcuni ovviamente, perché ne ha scritti tantissimi, raccontando storie che si legano a delle canzoni in particolare. E quindi ci sono, siccome con i Modena e anche da solo abbiamo fatto canzoni che richiamano il vissuto di Lucio, penso alla Perfetta Scusa, penso alla Carretera Austral che parla appunto della dittatura di Pinochet in Cile, penso a Fuori Campo, dove Lucio è venuto, ha partecipato, ha registrato la voce con noi e poi abbiamo realizzato anche un video insieme a lui. Insomma, sono tante occasioni di unione del percorso della vita di Lucio con il nostro percorso musicale, che alla fine mi era venuta voglia di proporlo dal vivo. Intanto che mi raccontavi di questa esperienza, hai nominato una canzone particolare, una canzone che io vorrei far ascoltare, ma prima ti chiederei di raccontarci la sua storia. È una canzone che, se non sbaglio, ha scritto proprio lui e che poi tu hai trasportato ovviamente in musica. Ci racconti qual è? Sì, è La Perfetta Scusa. Ed è un aneddoto. Io, tra le tante volte che sono andato a trovarlo a Guion, un giorno a casa sua, lui, mentre parlavamo, facevamo altro, mi aprì un cassetto e mi disse, e all'epoca ero ancora con i Modena, mi disse: Cisco, ho qua un regalo per voi. E tirò fuori un foglio con questo testo, un testo fiume di questa canzone, che si chiamava appunto La Perfetta Scusa. E guarda, se avete voglia lo potete musicare e ci fate quello che volete. Lui ce lo regalò proprio, come solo lui sapeva fare. E noi, il testo era veramente lungo, mi veniva in mente una sorta di locomotiva di Guccini con 13-14 strofe da cantare, e diventava troppo lunga. Allora io ho preso dal mio senso del tempo, ho preso le due strofe principali che mi sembrava rappresentassero il significato importante di quel testo, e poi le abbiamo fatte in spagnolo e poi le abbiamo tradotte anche in italiano. Quindi abbiamo fatto una forma canzone sul testo di Luis Sepúlveda, e questa è proprio grazie alla sua capacità e alla sua generosità anche di averci regalato questa bellissima canzone. Allora, noi adesso ascoltiamo questa canzone, sapendo anche la sua storia, e poi torniamo a farti qualche domanda. Una perfetta scusa per la salute russa alegre, che sarebbe una sola sfuggio, todavía es necesario, que somos el fuego de una memoria, que somos el agua de un río contenido, que somos la promesa de una mañana. Una perfecta excusa para aprender a querernos, es mirar al pasado con ansias de futuro, deja la puerta abierta a todo. Cuéntame. Allora, torniamo dopo questa bellissima canzone a parlare dell'evento che appunto ci aspetta il 3 ottobre, questo evento che ci hai raccontato essere dedicato a Sepulveda. Ti chiedo però se ha un significato particolare il fatto che venga fatta proprio a Montesole. Ci hai detto che viene fatta in un'occasione particolare, ma io quello che ti volevo chiedere, anche se forse è una domanda un pochino banale, è: secondo te quanto è importante parlare della resistenza al giorno d'oggi? Credo che sia importantissimo, credo sia sempre più importante, perché stiamo perdendo i riferimenti che hanno vissuto quel periodo, e quindi la memoria va tramandata di generazione in generazione, anche perché sennò viene travisata per fini politici, per scopi secondo me terribili, e quindi rischia di tornare in auge anche il revisionismo storico, cosa a cui io voglio dire starei molto attento, soprattutto di questi periodi. Quindi mi sento di dire che le storie dei partigiani, la storia della resistenza, la storia dell'uscita dalla guerra, la storia del ventennio fascista, no, che viene spesso anche rivalutato dicendo sono state fatte cose positive, ecco, la farei innanzitutto studiare come si deve nelle scuole già elementari e poi medie, e poi dopo cercherei di fare, diciamo così, approfondire a tutti quelli che sono stati i temi della resistenza, quelli che hanno spinto giovani e meno giovani all'epoca a prendere armi e bagagli e a rifugiarsi in montagna per combattere quello che era diventato l'oppressore, i nazisti e i fascisti che li sopportavano. Quindi bisognerebbe continuare a raccontare queste storie, a non dimenticare mai, continuare a fare memoria. Per questo anche quel giorno, oltre a tutte le canzoni dedicate a Lucio, come dicevamo prima, ci saranno anche molte canzoni legate alla storia della resistenza, come sapete, sia come Modena che come Cisco, nella mia carriera solista ne abbiamo fatte tante e continueremo a farle, e quindi le proporremo in gran numero nel pomeriggio del 3 ottobre, perché come sapete si suonerà di pomeriggio. Ricordiamo anche che è su prenotazione questo evento, quindi che è importante intanto prenotare il posto, e poi sarà molto particolare perché appunto dopo di voi ci sarà anche un altro spettacolo al tramonto, insomma sarà una giornata appunto a cui è importante partecipare. Allora io, prima di salutarci, ti chiedo l'ultima cosa: nella tua carriera comunque hai spaziato tra diversi generi, ci sono state tante contaminazioni, vorrei chiederti cosa ci aspetta per il futuro, se stai lavorando qualcosa e se quello a cui stai lavorando è stato influenzato da quello che è successo negli ultimi mesi. Sì, guarda, per quanto riguarda la scrittura, ho cominciato a scrivere cose già durante il lockdown, poi mi sono reso conto che tutto quello che scrivevo e che facevo era troppo influenzato da quello che stavo vivendo. Non ho nessuna voglia di scrivere un disco sul Covid, sul lockdown, avrei voglia di liberarmi anche di questo peso. Qualcosa ne uscirà e qualcosa rimarrà nelle tracce dei nuovi brani, però non cercherò di aspettare, di fare, diciamo, di lavorare a mente fresca. Sto lavorando anche in maniera diversa rispetto agli altri anni, cercando collaborazioni anche un po' strane, con magari artisti che non c'entrano molto col mio mondo, ma che cerco di portare a casa, diciamo così, contaminando quello che fanno loro con quello che faccio io, e vedere cosa esce fuori. Questo è un esperimento che sto già facendo, sto portando avanti, però è prematuro parlarne. Okay. Quello che spero veramente è che si possa tornare a suonare dal vivo al più presto, in maniera normale o quasi normale. Perfetto, allora aspetteremo queste contaminazioni, che hanno però una connotazione positiva fortunatamente in questo caso, e io ti chiederei allora, appunto, prima di chiudere questa intervista, ti ringrazio per essere stato con noi e per averci raccontato insomma quello che hai preparato per il 3 ottobre, ti chiedo anche se per salutare i radioascoltatori e radioascoltatrici di Radio Città Fucico ti va di scegliere una canzone e spiegarci anche il perché l'hai scelta. No, perché io quando mi chiedo queste cose mi mettono in difficoltà, perché c'ho così tanta musica nella testa che non vorrei neanche essere troppo banale. Allora ce l'abbiamo, no. Ok. Allora sì, ho una canzone da proporvi, magari non è semplice da trovare, ma su internet c'è sicuro perché l'ho sentita anche poco tempo fa. E visto che stiamo parlando di uno spettacolo dedicato a Luis Sepúlveda, di uno spettacolo che parla anche molto di Sud America, io vi proporrei di ascoltare un brano che si chiama Marialando, che è tratto da una compilation meravigliosa di un disco che si chiama The Black Soul of Peru, cioè le radici nere del Perù, dell'anima nera del Perù, che è poco andina e molto afro come disco. Questo pezzo è meraviglioso, Marialando, ed è una compilation prodotta dall'etichetta David Byrne dei Talking Heads. Questo è un disco per me eccezionale di musica etnica latina, ma anche molto africana, se volete, e vi consiglio di ascoltarlo in maniera completa. Io vi vorrei far sentire questo brano che si chiama Marialando. Perfetto, allora noi ci salutiamo con questo brano e ti ringraziamo di nuovo, ricordandoci che però ci vediamo il 3 ottobre al Poggiolo a Montesole. Esatto, il 3 ottobre al Poggiolo alle 4 del pomeriggio, alle ore 16 di sabato. Perfetto, grazie mille Cisco. Está ya como una estatua, como una estatua de alas que se dispersan por la ciudad. Y el mediodía canta campana de agua, campana de agua de oro que nos prohíbe la soledad. Y la noche levanta su copa larga, su larga copa larga, luna temprana por sobre el mar. Pero para María no hay mediodía, pero para María ninguna luna. Alza su copa roja sobre las aguas. María no tiene tiempo, María Lando, de alzar los ojos. María de alzar los ojos, María Lando, rotos de su de sueño, María Lando, de andar sufriendo, María de andar sufriendo, María Lando, solo trabaja, María solo trabaja, solo trabaja, solo trabaja, María solo trabaja y su trabajo es ajeno. Pero para María ninguna luna. Alza su copa roja sobre las aguas. María no tiene tiempo, María Lando, de alzar los ojos. María de alzar los ojos, María Lando, rotos de sueño. María rotos de sueño, María Lando, de andar. Solo trabajo. solo trabaja, María solo trabaja y su trabajo es ajeno.